sapeva un bischetto, da così all'amore non ci pensi più. Prendi il mondo allegramente, sempre sorridente, e felice sarai tu. All'amor tua non chieda mai, dove vai, cosa fai, e se il tormento provi in te, devi sorridere perché la gelosia non è più di moda, è una follia che non si usa più. Devi avere il tuo contento, stile 900, per godere la gioventù. Perché sei triste, non dormi più, perché vuoi dunque consumare la gioventù? Per un amore vano che non fa per te, la leggo cara, dai, ascolta me. Devi avere il cuore contento, stile 900, per godere la gioventù.